Letture di Radio 24. Dopo secoli, Dante Alighieri e la sua commedia non perdono fascino e rimangono eterni, ma occorre una riflessione su come tenere vivo lo studio e la diffusione degli scritti del sommo poeta. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Osserva opportunamente Gianluigi Beccaria nella sua lezione Mia lingua italiana, Torino e Einaudi 2011, che Dante non è solo l'artefice di mondi eterni, ma anche responsabile delle nostre immagini ed espressioni più quotidiane, come se noi ci rifugiassimo nella commedia per dar linfa ai nostri giudizi. Così il natio loco, le dolenti note, il discendere per li rami, perdere il ben dell'intelletto, senza infamia e senza lode, ma guarda e passa, mi fa tremare le vene e i polsi. A questi altri detti memorabili potrebbero essere aggiunti che punteggiano il nostro dire, enfatico o dolente, malinconico o fervido. Per me si va nella città dolente, e caddi come corpo morto cade. Era già l'ora che volge il disio ai navicanti e intenerisce il core. Siena mi fe, disfece mi maremma, trattando l'ombre come cosa salda, l'aiuola che ci fa tanto feroci, all'alta fantasia qui manco possa, e così camminando e con lui il mondo misurando. Questa familiarità con Dante, più che dai critici, ci è stata restituita da Roberto Benigni. Le sue letture in Piazza Santa Croce, la sua recente interpretazione del canto sesto del Purgatorio, lo scorso 13 aprile a Torino al Pala Olimpico per la seconda Biennale Democrazia 2011, davanti a 9.000 giovani attenti e come contratti in un silenzio vivido, hanno fatto di Dante veramente il nostro maggiore. Severo, sì, titanico talvolta, ma anche nella lettura piana e sofferta di Benigni, un giusto al quale si può affidare il dolore per l'Italia presente, per la corruzione sguaiata che la domina. È bastato che Benigni lasciasse il registro dell'ironia sul qui e ora e subito un'altra realtà, di passione altrettanto, ma di dignità antica e nuova, si imponeva sulla scena a tutte le gradinate, col gesto, con la voce, coi silenzi e le pause. Ella non ci diceva alcuna cosa, ma lasciavane gir, sol guardando, a guisa di leon quando si posa. La commedia è commedia, è il poema più dialogico di tutta la nostra letteratura. Sfilano comparse, protagonisti, papi e liutai, parlano dal basso, raso terra, infitti in ghiaccio e pece, oppure a petto erto d'orgoglio, o dall'alto, regalmente nell'atto ancor proterva, tale Beatrice al suo apparire. Come a teatro ci sono dialoghi e monologhi, duetti serrati, ma anche straordinari a parte. Così Beatrice stessa, che discosta, finge sorridendo un colpo di tosse per mettere fine al troppo caldo autoelogio di Dante e Cacciaguida e della loro famiglia. Onde Beatrice, che era un poco scevra, ridendo parve quella che tossio al primo fallo scritto di Ginevra. E pensare che la fonte è niente meno che il Lancelot, ma Dante tutto curva e fa convergere al proprio spazio. Giustamente Sanguinetti, Luzzi, Giudici fecero della commedia un'azione scenica e Benigni ora la prosegue. Dante è teatro e anche danza, che salta i versi e divide le parole. Così quelle carole, differente, mentre danzando, della sua ricchezza mi facciano stimar veloci e lente. E la teodia del paradiso, lungi dall'essere squadrato sillogismo, è luce, lume e fulgore, abbacinante incendio e cristallo. Vorrebbe coreografi teologi, capaci di star dietro a quelle terzine. Mentre io diceva dentro al vivo seno, di quello incendio tremolava un lampo, subito e spesso a guisa di baleno. E invece Dante non è qui. Scemano nelle università italiane le cattedre dedicate a Dante. Non solo esse rimangono sparute eccezioni, ma mancano addirittura in sedi che sono state culla degli studi danteschi. Sebbene non sia agevole sapere esattamente quante siano oggi le cattedre di filologia dantesca, poiché con il decreto ministeriale 4/10/2000 tutto il settore è stato accorpato nella categoria filologia della letteratura italiana, che comprende altresì letteratura medievale, umanistica, rinascimentale e altre discipline filologiche. Non è tuttavia difficile constatare che la scomparsa di Francesco Mazzoni, di Guglielmo Gorni, Il collocamento a riposo di Anna Maria Chiavacci Leonardi, gli insegnamenti specifici dedicati a Dante si sono contratti. A fronte di questo impoverimento trovano vivo successo iniziative che partono da benemeriti docenti liceali, come le settimane di studi danteschi di Palermo, animate da un decennio da Giuseppe Lomanto, che hanno riunito negli anni studiosi indimenticati, quale Edoardo Sanguinetti e gli esperimenti danteschi, una fervida lettura Dantis proposta dai giovani dell'Università Statale di Milano. Dante vive più che nelle aule accademiche, nella diaspora e nel partage delle vie della speranza. È anche questo un suo inesauribile fascino. Certo, va letta come incoraggiante la serie di edizioni e commenti che in Italia e in Francia sono dedicati al De Vulgari Eloquentia e alla Vita Nova, che completano nei Meridiani il benemerito commento alla Commedia di Anna Maria Chiavacci Leonardi e in Francia la bella traduzione di Jacques Risset, ora riedita con nuova ispirata introduzione. E quando si aggiunge al prezioso repertorio dei commenti online del Dartmouth Dante Project, DDP, e delle edizioni Salerno, non si può dire che manchino gli strumenti, ma ciò che manca è il professare Dante, nel senso forte del termine, quell'aderire alla sua parola che fa, e questo solo ci fa, professori. Quella sera di aprile, quando Benigni, con una parola che veniva dall'interno e dal sempre, esordì dicendo «Stasera, per comprendere Dante, dobbiamo credere ciò che egli ha creduto», mi sono detto «Questo è insegnare, tale è la poesia». In quell'essere testimone contro il tempo, Dante, nel Novecento, è stato meglio interpretato e compreso dai poeti. Pound e Eliot e Mandelstam, poeta di esilio e di riscatto, di dignità e povertà, senz'altra patria che il cielo, in sé chiudendo e pregando il mio bel San Giovanni, come lo riscrive Anna Achmatova, neanche dopo morto è tornato nella sua Firenze d'un tempo. Era partito lui senza volgersi indietro. Per lui canto questo poema. Fiaccola, notte, ultimo abbraccio. Il destino selvaggio urla varcata la soglia. Dal fondo dell'inferno l'ha maledetta e nel paradiso non ha potuto scordarla. Non lo si è visto a piedi nudi, in camicia, con un cero acceso, traversare la sua Firenze desiderata, infedele essa e vile e così a lungo attesa. Ecco, è tornato il tempo di Dante, nella notte che incalza, mentre ciò che abbiamo amato è sfigurato e lacerato. A un tratto torna a mente una terzina, neanche un canto o una cantica, e questo basta. Come giaculatoria o talismano e intercessione. Così la circolata melodia si sigillava e tutti gli altri numi facean suonare il nome di Maria. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Ossola dalla Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi. Russia e Georgia si sono fatti la guerra nell'Ossetia del Sud. Correva l'anno 2008 e 3 anni dopo quella guerra si è trasferita al cinema, dove i due paesi hanno raccontato la propria versione dei fatti. La guerra che nel 2008 ha visto Russia e Georgia affrontarsi in Ossetia del Sud si è ora trasferita al cinema. I paesi belligeranti hanno entrambi presentato sul grande schermo la loro versione dei fatti, sperando così di conquistare l'opinione pubblica. Mosca si è mossa per prima, con un film trasmesso con grande successo, il 24,5% di share, dal primo canale della TV nazionale. Ora sono arrivati i georgiani che possono contare su una produzione indipendente di Hollywood, con attori del calibro di Andy Garcia e Val Kilmer. Il film sarà presentato con grande enfasi a Tbilisi nei prossimi giorni, in una proiezione alla quale dovrebbe presenziare anche il presidente Mikhail Saakashvili, che già ricevette con tutti gli onori Garcia durante le riprese della pellicola. Il film russo, Olympus Inferno, si richiama alla propaganda sovietica. Non a caso Lenin diceva che il cinema è la più importante delle arti, ed è stato realizzato da un regista molto amato dai giovani. Un entomologo americano e una giornalista russa si ritrovano in Ossetia alla vigilia della guerra per osservare una rara farfalla notturna. Nella notte tra il 7 e l'8 agosto del 2008 sono così testimoni diretti con la loro macchina da presa dell'attacco georgiano e dei bombardamenti contro Skinvali. Documentano i 2000 morti civili e la presenza sul campo di truppe americane a fianco dei georgiani. Tutte cose nelle quali il pubblico russo ancora oggi crede fermamente. 5 giorni ad agosto è un progetto più ambizioso, costato 20 milioni di dollari, e affidato al regista Rennie Harlin, che ha diretto Stallone in Cliffhanger e Bruce Willis in Die Hard 2. Harlin ha girato in Georgia e ha potuto usare per le scene di massa i resti dell'armata georgiana. Nel film, una troupe televisiva finisce dietro le linee russe ed è testimone delle atrocità compiute contro i civili. Ma nessuna TV vuole il reportage, perché tutto il mondo è concentrato sulle Olimpiadi di Pechino. Se sul campo non c'è stata storia tra il gigante russo e la formica georgiana, sullo schermo Tbilisi sembra invece destinata ad avere la rivincita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Russia e Georgia sempre in guerra. Dopo l'Ossetia tocca al cinema, di Fabrizio Dragosei, dal Corriere della Sera di venerdì 20 maggio.